lenta scorre la mia vita sulla tua pelle. Più passa il tempo e più capisco che siamo in regressione. Tra social network e massoneria non posso più neanche darti una rosa rossa. E tutti quei cuori su WhatsApp cosa rappresentano, scusa? Viviamo in un mondo che ormai è indeciso, tra il pudore più sfrenato e la matta voglia di denaro. Che senso ha la vita? Mi hai chiesto ieri su Ask. È tutta una vita che me lo chiedo, così ho risposto io.